E buonasera amici di Radio Wombat e in particolare di 8 Hertz, grazie a qualche folle che segue sempre la trasmissione, sperando che il numero salga e che sempre più persone si appassionino un po' a quello che spesso viene messo o trattato. Abbiamo fatto le settimane scorse, almeno per un paio di puntate, dei DJ set un po' decostruiti, amorfi e astratti, anche con qualche minuto o più di un minuto dance o elettro o techno, insomma roba anche ritmata, però rimanipolata. E stasera parliamo sempre di manipolazioni sonore, ma a questo giro l'incipit della puntata me l'ha un po' data un disco che ho comprato pochi giorni fa, di un gruppo che mi piace tantissimo e spesso metto, che sono i Coil, che era un duo barra trio, poi via via persone che andavano e persone che venivano nel gruppo. Inglese, che partì dal post industriale per fare qualcosa di diverso. Loro si definivano quasi degli sciamani della musica elettronica e industriale, e anche alchimisti proprio nel saper manipolare dei suoni e renderli qualcosa con un valore più alto, insomma. E il disco in questione si chiama Time Machines, che è stato appunto, che era un disco del 98 che è stato ristampato dalla Dice Records nel 2017 finalmente. Era uno di quei dischi che non avevo, per cui quando ho saputo della ristampa l'ho subito comprato e è bellissimo. E cioè, lo sapevo perché insomma l'avevo già ascoltato tante volte in altre forme. Comunque è uno dei dischi più sperimentali dei Coil, perché il Time Machine sarebbero proprio dei singoli pezzi con i quali, ascoltandoli, viaggiare proprio nel tempo. La cosa interessante è che l'esperimento proprio era che ogni pezzo è stato scritto e suonato sotto un tipo di droga diverso per ogni pezzo. E sono, mi pare, 4 brani, ognuno che si chiama proprio con la formula chimica della sostanza. Le sostanze che spaziano tra l'ayahuasca, come si dice, ayahuasca, non mi ricordo mai, l'ecate, la triptamina, che è quella dei rospi, che se li lecchi vai parecchio di fuori, e la psilocibina, che sarebbe quella dei funghi, che forse è un po' più conosciuta. C'è tanto da dire su questo disco. Intanto che uno degli slogan dei Coil era Music cures cure you of time. Quindi la musica ti cura dal tempo anche, quindi è una cosa attiva che può andare anche contro il tempo stesso, per chi soffrisse per esempio di ansia, insomma. E da qui in poi Coil, che erano in una formazione oltre a John Balance e Peter Christofferson che ci sono agli inizi, erano accompagnati da Drew McDowell che ha fatto tanta strada insieme a loro, e anche da Ty Paul Sandra, che proprio da questo disco in poi c'è sempre stato fino alla fine del gruppo, visto che purtroppo i fondatori, ognuno in modo diverso, hanno trapassato verso qualcos'altro. E la cosa bella è anche dal punto di vista grafico, la copertina è una sorta di uovo o specchio nero, c'è cioè chi dice che viene da un oggetto e da una teoria dell'occultista e alchimista John Dee, che è vissuto tra il XVI e il XVII secolo alla corte di Elisabetta I. Lo specchio di Dee era un manufatto di origine azteca che aveva il compito di attirare e imprigionare le anime dei morti, perse proprio nel flusso del tempo. Queste cose, tra l'altro, volevo dirlo, li ho letti in una bellissima recensione, qualcosa già sapevo, di appunto questa ristampa, una recensione di Onda Rock, ora non mi ricordo chi l'ha scritta, me l'ero segnato, purtroppo, ecco, sì, da Marco De Baptistis, e l'ho trovata interessante, una delle poche recensioni, secondo me, serie che vengono fatte. E interessantissimo è anche sono anche le note che sono all'interno della copertina di Julian Cope, che ascolterete sempre nell'arco della puntata, poi vi dirò chi è. E lui scrive: "When people jump through through time, they give themselves up to the rhyme and reason of the heavens." Ovvero, quando le persone saltano attraverso il tempo, si abbandonano alla poesia e alle ragioni del cielo, più o meno si può tradurre così. E all'interno di questo specchio o uovo nero, che può essere anche la vita, ma anche l'antimateria, visto che all'interno è nerissimo, appare un logo che poi, appunto, proprio da questo disco diventerà proprio il logo costante dei Coil, che è un si chiama un monas hieroglifica, ovvero un glifo. Il glifo sarebbe un simbolo che contiene all'interno una serie di simboli, che sembra un po' il simbolo di Mercurio, ma con delle variazioni, che ogni variazione in realtà sistemizza una cosa. Per cui, insomma, c'è tanto da dire e tanto da ascoltare in questo disco. Io intanto vi metto una traccia, che è proprio la traccia che è stata composta sotto triptamina, che appunto era il veleno dei rospi, ma è anche ricavabile dall'ayahuasca, ecco, ayahuasca, non è difficile, ma un po' così. E per cui sentitevelo, ovviamente è un po' impegnativo, ma vale la pena. Quindi il brano 3, che si chiama 5-MO-DMT e qualcosa, e tante robe anche, proprio una formula chimica. Buon ascolto, Coil, il primo brano di questa puntata, tratto da Time Machines, finalmente ristampato da Dice Records, Radio Wombat 8 Hz. Stasera si parla del tempo e dello spazio e del filo della mente che lo percorre. Ecco, scusate, avete sentito il brano dei Coil tratto da Time Machine, dove appunto la sperimentazione consiste in tutto il disco di ascoltare e creare il brano con l'assunzione di droghe che ti dovrebbero fare proprio viaggiare nel tempo. E andando avanti, la puntata è un po' sulla cerchia di Coil e Affini. Durante un periodo che appunto è fine 90, per poi estendersi negli anni 2000, un altro di loro, appunto, che ha suonato in quel disco si chiama Tide Paul Sandra, che sarebbe un signore perché ormai è della classe 1958 gallese, sperimentatore appunto musicale, polistrumentista più che altro. Utilizzando sintetizzatori e tastiere, ne ha veramente una quantità incredibile. Guardando un po' nei dischi cosa ho usato per farli suonare, appunto è legato al brano precedente proprio perché anche qui c'è lo zampino di Julian Cope, proprio perché ha iniziato la carriera insieme a lui dopo un periodo post-punk che hanno avuto entrambi. E poi Tide Paul Sandra formò nel 99, si aggregò anzi nel 99 con gli Spiritualized, che fanno roba un po' più tranquilla e pop, e appunto con i Coil fino alla fine, fino, si può dire proprio fino alla morte. E il pezzo che vi faccio ascoltare è tratto da Rape Scene, che mi pare sia il terzo disco uscito nel 2004 per Ocre Records. È suonato da un trio, Tide Paul Sandra con Sion Orgon e Martin Shellard. Il brano in questione si chiama Joyful Misuse of the Gomoco Clamp. Vi voglio leggere cosa suonano e chi suona cosa, insomma. Alla che Martin Scheller suona la chitarra, l'elettronica e una radio ad onde corte. Poi ci sono tre cinesi, Bob Chang, Lista Chong e Po Wing-Yung, che applicano una sorta di ensemble e di performance all'interno del brano. Tide Paul Sandra, che suona alcuni sintetizzatori, che sono il PPG Wave 2.2, il Serge Modular, il Phoenix, lo Yamaha DX7. Oltre a questi suona il piano, il Theremin e l'Optigan, che sarebbe un organo. Sion Orgon invece suona un sintetizzatore che è il World of Microwave, effetti tratti dalla Lexicon PCM80, la batteria, le voci e anche lui il piano. Per cui insomma sono in tre, ma fanno una musica molto vicina alle sperimentazioni della musica dei primi 900 e oltre. C'è una sorta di concertato veramente invidiabile, insomma. Ma bando alle ciance, ascoltatevi questo pezzone che è anche lungo, sono quasi un quarto d'ora, quindi continuate a viaggiare nel tempo e nello spazio. Thank you. We'll be right back. Sei su Radio Wombat e questa è 8 Hertz. State ascoltando la fine di un brano di Tight Pulsandra. E stasera, appunto, la serata è proprio dedicata a questa cerca di artisti londinesi sperimentatori al massimo, che hanno sperimentato anche sulla propria pelle qualcosa che ha a che fare con lo spazio e con il tempo. Mentre scorre il finale, siamo giunti al nome del quale vi ho parlato per questo brano e quello precedente, ovvero Julian Kopp. Chi è Julian Kopp? Intanto è un cantante, musicista, scrittore, musicologo e antiquario gallese, sempre classe 57, quindi insomma di una certa età, così come tutti quelli che più o meno ascoltate stasera. Era famoso perché suonò dal 1978 col gruppo The Teardrop Explodes, gruppo post-punk che poi, come tanti gruppi di fine anni 70 post, sono diventati pop. E finita la carriera con loro, usando tanti stupefacenti, così come andava nel periodo, ha iniziato a fare carriera solista, per poi fondare proprio un'etichetta sua nel 97, che è la Head Heritage. Di lui narrano di cotte e di crude. Sappiamo che è un appassionato e studioso delle civiltà neolitiche, è stato attivista culturale, sempre contro la civiltà occidentale, è fissato con l'occultismo e il paganesimo, per cui nei gruppi, in tutti gli album, c'è sempre una sorta di rimando, anzi più che una sorta, proprio di rimando costante al passato. Tanti dischi si intitolano con Rito, Rito 1, Rito 2, se vi guardate la discografia è molto vasta, insomma. Ha suonato proprio insieme, appunto, a Tight Pulsandra tante cose, come vi accennavo prima. E la cosa buffa di Julian Kopp è leggersi anche le sue interviste. Per esempio, lui fa roba, come ascolterete, che è di stampo molto anni 70 e 80, più anni 70 e ancora più indietro, per cui lui dice che è molto preso dal futuretro, cioè il muoversi in avanti andando all'indietro. E tra l'altro diceva, visto che è anche lui uno sciamano della musica, questo modo di muoversi in avanti andando all'indietro è tipico proprio della tradizione degli usi sciamanici. Affermava anche che gli piace molto studiare le società preistoriche, per il fatto che gli esseri umani si trovano sempre in uno stato di divenire permanente, ovvero non si arriva mai a una fine, quindi appunto studiare la preistoria è l'unico modo per guardare al futuro e capire che posto occupiamo qui nel pianeta e forse anche da altre parti. Quindi, insomma, ci sta con la puntata, e anzi lui è proprio Una delle menti che ha fatto nascere tante esperienze di tipo estremo musicale. Ascoltiamoci questo pezzo che si chiama Ver del 1997, tratto da Read 2, che mi pare proprio sia il primo disco che uscì per la sua etichetta Heard Heritage. Anche qui ci sono un sacco di strumenti, c'è tal pulsandra, batterie, è quasi una sorta di continuum con il krautrock e la psichedelia del 70, ma con montate, cose innovative, ma che potrete sentire tra poco. Ci sentiamo dopo questo pezzo che è lungo come tutti quelli di stasera. Thank you. Avete ascoltato Verdi Julian Cope del 1997. Tra l'altro mi sono scordato di dirvi che Julian Cope appunto è anche scrittore, ha scritto vari libri anche su di storia della musica, e è anche un critico musicale. E appunto, se andate nel sito dell'etichetta, che è anche un suo blog personale che si chiama Heard Heritage, potete leggervi di tutto di più di questo eccentrico personaggio. Vi ricordo che siete su Radio Wombat e questa è 8 Hertz, e vi faccio un ripassino prima sui social. C'è il Twitter, twitter.com/radiowombatfi, il Facebook, basta che digitate Radio Wombat Firenze, la mail importantissima che si chiama postawombat@insiberia.net, e poi sono partite le nuove trasmissioni, quasi tutte rassegne stampa su quello che succede a Firenze, su quello che succede nella Piana, su quello che succede nel mondo, e anche rassegne eventi, cioè quello che potete trovare in città via via di cose salienti e importanti. Continuando la trasmissione, che appunto è sulle stonature proprio del cervello, sul concertato psicologico e musicale, sui tappeti, le decorazioni della mente messa in musica e applicata a delle strumentazioni improbabili anche. Andiamo avanti parlando del terzo dei Coil, che è stato con loro dal 94 fino al 2002, ovvero Drew McDowell, scozzese. Anche lui aveva un gruppo post-punk all'origine, che si chiamavano i Poems, nel lontano 1978. Poi è stato un membro degli Psychic TV negli anni 80, insomma, quindi anche lui si è fatto le forme più estreme di musica inglese che giravano in quel periodo e che oggi ascoltiamo di rimando, ma anche continuano a fare dischi. E proprio dall'ultimo disco di Drew McDowell vi farò ascoltare un pezzo. Il disco si chiama Natural Channel, è uscito proprio per la Dice Records nel 2017, così come vi ricordo la ristampa di Time Machine, che è uscita nel 2017 ma verso dicembre, per cui è roba nuovissima, insomma. Grande Dice Records che sta sfornando queste perle meravigliose. Ascoltatevelo. Che altro dirà? Sì, che il brano si chiama Unnatural Channel parte 2. È un disco molto scuro, un pochino più industrial, ma insomma, godetevelo. We'll be right back. Lui era Drew McDowell, il terzo dei Coil. Parliamo ora di Rose McDowell, ovvero sua moglie, sempre scozzese, sempre attivissima dagli anni 80, anche lei con un gruppo punk o post-punk di nome Strawberry Switchblade, e poi ha collaborato con praticamente tutti quelli del giro dei Coil, ovvero Current 33, i Death in June, Alex Ferguson, New Sweet Wound, Psychic TV, Boy Drice, insomma, collaborava attraverso l'uso della voce e della chitarra. Fondamentalmente è di tutto quello che ha fatto è stato nella direzione del folk e del neo folk. Infatti quasi tutti i gruppi che vi ho citato sono più o meno di quell'ambiente, con quella predisposizione. Il brano che sentite si chiama This Calling, tratto da uno degli ultimissimi lavori che ha fatto, che si chiama Our Twisted Love EP, uscito per Night School nel 2017. Questa è la cosa più normale, tra virgolette, che vi potete ascoltare stasera, però è appunto una voce, un'influenza molto forte in tutte le produzioni dei gruppi che avete ascoltato finora, e questa è Rose McDowell. Take my sweetest lie, measure it for size. It's true, I lie for you. Take my dearest wish, wrapped within a kiss. It's true, I wished for you. Take away this fear, measure it. Precious wine, spend drinking life and time. It's true, I live for you. Take this apple seed, press until you bleed. Take away this fear. e lei era Rose McDowell con The Calling. Qui siamo andati sul folk o neofolk. Vi lascio con una chicca lunga, perché dura un quarto d'ora circa, che è una tratto da una performance a una radio che si chiama WFMU, ad opera di Tony Conrad, Edley O'Don e Genesis Breyer Peorridge. È la traccia 3. Quindi andiamo con calma. Intanto, cos'è la WFMU? È una radio. Una radio libera e indipendente, o almeno lo era, che la prima volta che è stata nera è stata nel 1958. È una radio che era appoggiata dal Uppsala College e si trovava proprio lì, ovvero in East Orange nel New Jersey. E piano piano poi le vicissitudini l'hanno fatta traslocare e ora è proprio a Jersey City dal 98. Quindi è interessante anche scoprire un po' le vicende di questa radio. E comunque, chi è Tony Conrad, chi è Edley O'Don e chi è Genesis Breyer Peorridge? Tony Conrad, due di loro ne avete già sentito parlare. Tony Conrad, morto nel 2016, nato nel 1940, un musicista e videoartista americano di avanguardia, compositore, insegnante e scrittore. Insomma, è stato una figura importantissima nella storia della musica contemporanea. Ha partecipato tra l'altro negli anni 60 al gruppo Theater of Eternal Music, che era un gruppo sperimentale, anche teatrale newyorkese, di cui facevano parte appunto anche John Cale e la Monte Young, insomma, proprio piccoli noi. Credo che anche sia insieme a John Cale fu quello che diede un po' la direzione ai Velvet Underground ancora prima che nascessero, visto che era molto amico di Cale. Ha suonato con Charlemagne Palestine, appunto con Genesis Peorridge come in questa occasione, con Keiji Aino, insomma, Jim O'Rourke, gli Animal Collective lo fecero suonare all'Old Tomorrow Parties nel 2011. Queste sono le notizie un po' così di base, ma forse ci sarebbe anche roba più seria da dire. E quindi c'è lui al violino, tra l'altro fece poco prima di morire un disco bellissimo di solo violini dronati ambientali che vorrei farvi ascoltare prima o poi. Comunque, Edley O'Don invece è un batterista, percussionista e videomaker che ha suonato, oltre a in questa cosa, anche negli Psychic TV, nei Kaylesa, quindi anche in gruppi post-hardcore, e nei The Majesty. E Genesis Breyer Peorridge ovviamente era la mente degli Psychic TV, così come la mente dei Throbbing Crystal, oltre a Peter Christopherson dei Coil. Insomma, è una vecchia storia, quindi un personaggio enorme in tutti i sensi. Fecero appunto questa sorta di live alla radio, e questa radio poi è diventata famosa così tanto da potersi permettere di far suonare questi gruppi, ma anche tanti altri. Se date un'occhiata a quello che hanno fatto, vi spaventate. Anche Radio Wombat prima o poi diventerà così, se ha l'appoggio di voi persone che ci ascoltate. Vi lascio allora con questa parte, che è la terza parte di questo live alla radio, che ci sta con tutto quello che avete ascoltato finora. Noi ci sentiamo settimana prossima, grazie. 8 Hertz su Radio Wombat. I'm sorry. This is a song called Radioactive Spillage.